Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. E salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi purtroppo dobbiamo occuparci proprio della crisi dei container. Pensate, in questo momento ci sono circa 14 miliardi di dollari di merci che sono bloccate dal fallimento di uno dei principali operatori nel trasporto dei container, il gruppo Hanjin Shipping, un fallimento che solo in Italia ha provocato il blocco di circa 1000 container. Cerchiamo di capire cosa significa questo per l'economia mondiale, ma soprattutto per l'economia italiana, in compagnia dei nostri ospiti. Cominciamo con il primo, che è Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, l'associazione che a Genova, ma anche a livello nazionale, essendo una delle realtà più importanti del paese, rappresenta le case di spedizione internazionali. Dottor Botta, allora vogliamo fare un attimo un passo indietro e capire dove ha origine questa crisi dei container. Ma guardi, la crisi dei container forse ha le origini, dal nostro punto di vista, in una scelta che gli armatori ormai di anni hanno compiuto, vale a dire quella di votarsi alla costruzione di portacontainer di grandissima capacità. Oggi si costruiscono navi da 18-20 mila TEU, tanto per intenderci. Questo fenomeno del gigantismo navale ha creato, in una situazione internazionale di crescita economica debole, un eccesso di stiva, quindi un'inflazione di spazi nave rispetto ad una richiesta degli stessi inferiore. Questo fatto ha generato dunque una riduzione dei noli ormai endemica, che va avanti da diversi anni, che ha afflitto e affligge in primis le compagnie armatoriali, costrette a sostenere altissimi costi legati alla produzione di queste navi, al loro mantenimento e all'armamento, e conseguentemente ad una offerta che si è votata ad un costante ribasso dei costi del trasporto, e quindi a una riduzione sensibile delle utilità che gli armatori, certo, stessi riescono ad avere. Quindi è una crisi legata al crollo dei noli dovuta ad un eccesso di offerta sostanzialmente, esatto. E la prima vittima di questa crisi è stato questo gruppo internazionale molto noto, molto importante, il gruppo Hanjin, appunto, crisi che ha portato in questo momento al blocco di queste navi che non possono neanche accedere ai porti. Presentiamo anche la seconda ospite della nostra trasmissione, Giorgia Bucchioni, della comunità portuale di La Spezia, ma che è anche consigliere nazionale di Federagenti ed è anche agente di Hanjin. Quindi credo, dottoressa Bucchioni, sta vivendo questa esperienza da un duplice punto di vista. Sì, ha detto bene, noi stiamo vivendo nel porto della Spezia, ma comunque mi sento di dire a livello generale, come agenti marittimi, un momento molto critico, molto difficile. Il grande timore è che a questo colosso possano seguire altre compagnie, quindi che ci sia una sorta di effetto domino. Diciamo che anche però che la situazione di Hanjin Shipping ci ha lasciati come agenti abbastanza sorpresi, in quanto sapevamo che c'era una ristrutturazione del debito della compagnia, ma nulla faceva presagire un epilogo di questo tipo. Giampaolo Botta, qual è la situazione al momento in Italia e nei porti italiani? Ma nei porti italiani, dai dati e dagli elementi che la compagnia ci ha fornito, per quanto riguarda nello specifico il caso Hanjin, abbiamo circa 1.000-1.500 contenitori che sono già stati sbarcati e quindi sono presenti in diversi porti, in primis il porto di La Spezia, poi il porto di Genova, ma vi sono contenitori fermi anche nei porti di Livorno, di Ancona e di Napoli. Ecco, che cosa intende, chiedo scusa, quando dice fermi? Fermi nel senso che allo stato attuale la compagnia Hanjin sta sostanzialmente cercando di trovare degli accordi con i terminal operators e con gli spedizionieri per, diciamo così, individuare le condizioni economiche che possano garantire l'uscita, quindi l'importazione di questi contenitori, rispetto a quella che è un po' una proprietà della compagnia stessa, cioè il contenitore. Sono bloccati perché abbiamo purtroppo una situazione che fino a ieri era di stallo, ma che speriamo di avere sbloccato con l'accordo che abbiamo raggiunto ieri, legato ai costi appunto di ritiro dei contenitori. Tra l'altro, come dicevamo prima, ci sono in questo momento circa 14 miliardi di dollari di merci bloccate. Praticamente è partita una vera e propria operazione di salvataggio da parte dei grossi gruppi industriali per recuperare queste merci bloccate in molti porti proprio per questi problemi legati all'insolvenza poi della compagnia. Come si procede in questi casi? Praticamente il proprietario della merce cosa dovrebbe fare per rientrare in possesso di questo materiale? Il proprietario viene da noi, paga i costi dovuti ad Algin e noi rilasciamo la merce. Dopodiché va al terminal che dietro costi che chiaramente hanno deciso loro e che ieri dopo l'accordo anche con Spediporto stanno praticamente definendo, ritira il proprio contenitore. Prima la dottoressa Bucchioni parlava di un pericolo, quello dell'effetto domino. Lei ha esordito raccontando ciò che c'è alla base di questa crisi, cioè questo crollo verticale dei noli. Si parla di perdite per svariate decine di milioni ogni anno. Lei teme questo effetto domino? Non vi è dubbio che il primo commento che si è, diciamo così, avviato tra gli operatori, il primo timore che c'è stato è che questa potesse essere un pochino la Lehman Brothers dello shipping, quindi una compagnia comunque importante, tra le più importanti a livello mondiale, che godeva del credito, della considerazione di tutta la comunità, si è trovata all'improvviso, dall'oggi al domani, in una situazione veramente incredibile. Per cui non vi è dubbio, questo timore c'è, però non bisogna neanche essere così negativi, nel senso che dobbiamo immaginare che di fronte ai riflessi negativi che questo evento ha e sta producendo, ci sia da parte degli azionisti, delle private equity, delle banche, la necessità di comprendere che intervenire su una compagnia armatoriale significa anche mettere in crisi la filiera produttiva di multinazionali, mettere in crisi il settore delle vendite in tutto il mondo. Oggi sulle navi Anjin sono già caricati contenitori con merce destinata alle vendite a Natale, quindi abbiamo veramente ci sono quantità di merci di alta tecnologia deperibili. Quindi è un effetto domino anche legato a quelli che possono essere potenzialmente danni alla produzione industriale, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio. Noi vogliamo essere ottimisti, però dobbiamo sicuramente come comunità portuale affrontare, come diceva la collega dottoressa Bucchioni, con grande senso di maturità questo momento, sapendo che qualcosa deve cambiare dal punto di vista della considerazione e della valorizzazione del trasporto. Un'ultima battuta, che tempi prevede per la normalizzazione di questa situazione? Noi vogliamo arrivare a garantire agli operatori, agli spedizionieri internazionali italiani e ai loro clienti la normalizzazione entro la prossima settimana, possibilmente già entro la metà della prossima settimana. Ci siamo dati un'agenda di lavori molto pesante, stiamo lavorando ininterrottamente al perfezionamento di questo accordo. Ringrazio veramente tutti, dai terminalisti alla compagnia, agli operatori, alla Fedespedi, che è la nostra federazione, che ha fatto un'operazione molto importante, di grandissimo valore per quello che è il nostro settore, offrendosi e proponendosi di sottoscrivere questa polizza fideiussoria. Quindi a loro prima di tutto un grazie e il merito di essere stati protagonisti di un'iniziativa che è unica, come purtroppo è stata unica ed eccezionale la situazione di Anjin. Certo. Ecco. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.